tutti convocati. È vero che Mario Ballotelli a gennaio arriva alla Juve? Perché sinceramente a me, da juventino, anche se me lo regalavano, non me lo prendevo. Da questo momento, lo dico quasi quasi credendoci, il Palermo vincerà lo scudetto. Volevo sollevare un attimo il livello del colloquio dopo aver sentito Cassano, perché veramente non si può sentire. Buon pomeriggio da Giovanni Capuano. Carlo Genta gode di un meritato turno di riposo fino a giovedì. Ma voi siete tutti convocati qui in questo lunedì dopo il derby che a me personalmente ha messo una tristezza infinita. Il più brutto derby non so da quando. Qualcuno mi ha suggerito un 1-0 gol di Minaudo, 1-0 per l'Inter, era il 6 aprile 1986. Oppure ditemelo voi, aiutatemi, perché non riesco a farmi scivolare via questa sensazione di tristezza, di ridimensionamento che mi ha preso da ieri sera. Anche pensando che contemporaneamente a Milan-Inter, alle sue brutture, alle sue polemiche per l'arbitraggio di Valeri, a Barcellona andava in scena il classico della Liga, quello che in Italia e forse solo in Italia non abbiamo visto in televisione e che allora noi vi facciamo sentire. Olé! Toque para Marcelo, Marcelo sacándola atrás, de tacón para Kedira por abajo para Benzema, como se da la vuelta, la entrega para Cristiano, dispara Cristiano, ¡gol del Real Madrid! ¡Gran jugada del Real Madrid! Corto Messi, recibe a Andrés Iniesta, atención Andrés, la saca para Pedro, Pedro que busca el centro, peligro para Iker Casillas, se eleva Pepe, cae ahí, es Messi, ¡gol! Xavi preparados, están los dos, le pega Leo Messi, ¡gol del Barcelona! E l'avete sentito? Andrés Iniesta, me pareció falta clara de Kedira, la pelota para el Real Madrid, oportunidad Cristiano, ¡gol del Real Madrid! También va a dar que hablar esta. Mancava il 2-2 di Cristiano Ronaldo, del resto il classico qui in Italia non l'abbiamo visto, io non l'ho visto, purtroppo ho dovuto vedere il derby di San Siro, l'ha visto però dal vivo Filippo Maria Ricci. Buon pomeriggio Filippo. Buon pomeriggio. Aiutaci a risollevarci dalla tristezza che ci ha preso da ieri sera, seguendo a San Siro un Milan-Inter di rara bruttezza, mentre a Barcellona mi dai il voto da 1-10 sullo spettacolo di questo classico? Guarda, io direi almeno 8, perché vabbè, il primo tempo è stato un po' moscio, poi il secondo tempo da 10 addirittura, è stato un secondo tempo spettacolare, e una partita molto divertente, intensa, piena di cose, piena di vitalità, e insomma io non mi stanco del classico, ne abbiamo visti solo 14 negli ultimi due anni. Dal primo di Mourinho, dalla manita che era in novembre del 2010, siamo arrivati a 14. Però non ce n'è mai abbastanza. No, perché adesso sai, ci sono anche, abbiamo avuto solo un minimo di intossicazione nella primavera dell'anno scorso, quando ci sono stati 4 classicos in 17 giorni. Lì non se ne poteva più, anche perché poi Mourinho aveva caricato la partita di altre cose, di scorie radioattive. Adesso, una volta tornata la pace tra i giocatori della nazionale, si respira una bell'aria. Ieri c'è aggressività, c'è intensità, però in realtà poi sono belle partite di sono calcio. Sono sicuramente belle partite. Tanta qualità. Certamente più belle, saluto Andrea Sorrentino, collega di Repubblica, che invece ieri era a San Siro, forse a farsi prendere dalla tristezza. Certamente partite più belle, Andrea, del derby di ieri sera, o sbagliamo? No, senz'altro, è stato di sicuro il più brutto degli ultimi anni, ma di gran lunga, forse paragonabile a quello di un paio d'anni fa, vinto dal Milan con un 1-0 rigore di Ibrahimovic subito, e poi fu una partita piuttosto spenta e con pochi acuti, ma ieri sera credo si sia toccato il fondo, ma proprio per una povertà tecnica degli interpreti, temo, ed è il dato poi più preoccupante. Se pensate che l'acquisto più importante delle due squadre nel mercato estivo, quello più costoso, è stato Alvaro Pereira, 13 milioni di euro, ed era riserva ieri sera. Certamente, è entrato e diciamo che non ha lasciato una traccia indimenticabile su questo derby. Me lo dai un voto da 1 a 10? E poi ricordiamo che però 2 anni fa il Milan si giocava lo scudetto, perché è vero che quello è stato un derby brutto, ma era un derby che serviva a qualcosa. Io ho l'impressione che questo servirà poco, certamente al Milan, che a questo punto è fuori ufficialmente da tutti i giochi, però voglio sapere anche cosa ne pensate da casa, 800 24 00 24 per le vostre telefonate, 349-238-6666 per i vostri messaggi, oppure su Twitter, @ tutti convocati. Parliamo anche dell'arbitro, parliamo anche di Valeri, però ditemi anche cosa ne pensate della povertà tecnica di questo derby. Andrea, ho l'impressione che questa sia una stagione che alla fine al Milan lascerà poco o nulla in mano. Per l'Inter vediamo, ma ad esempio si aprono le due settimane di attesa della sfida tra Juventus e Napoli, il duello per lo scudetto è tutto lì. Io aspetterei a dirlo, perché secondo me la Juventus è di gran lunga la squadra migliore del campionato, però deve giocare la Champions, che le si sta complicando, e la Champions è sempre una competizione che prosciuga energie fisiche e mentali, quindi per la griglia del campionato io aspetterei. Quanto a Milan e Inter, dobbiamo farci l'abitudine, questo è l'anno zero del calcio milanese, forse anche del calcio italiano, e l'anno zero è così, si riparte quasi da zero, e ripartendo da zero non si può pretendere chissà quale tipo di qualità. Negli interpreti e nelle squadre. Olè! Scrive Giovanna su Twitter, @ tutti convocati, il derby più brutto, 29 novembre 2002, Milan-Inter 1-0, gol di Serginho su errore di Vivas, io dormì per tutto il secondo tempo. Ma c'è anche chi ci scrive al 349-238-6666, il derby non conta come si gioca ma come si vince. O ancora Ulisse per tutti convocati, certo per i milanisti è stato brutto come del resto anche il penultimo, io aggiungo come 8 degli ultimi 10, perché c'è questa striscia aperta incredibile negli ultimi 5 anni dell'Inter, che segna un po' una tendenza che ha pochi riscontri nel passato del derby milanese. E poi ancora Alberto, evidentemente tifoso dell'Inter, l'importante è battere il Milan anche rubando. Filippo Maria Ricci, Mourinho ieri sera dopo la partita: dovrebbe essere proibito a tutti dire chi tra Cristiano Ronaldo e Messi è il migliore del mondo. Proviamo ad infrangere la fatua di Mourinho, chi è il migliore? Perché Cristiano Ronaldo in questo inizio di stagione ci sta mettendo del suo. Io dico Messi, però perché mi piace più come gioca, voglio dire, sono due fenomeni, quindi non è che dicendo che uno è meglio l'altro, diciamo, l'altro è scarso, no, stiamo parlando veramente dei due migliori giocatori del momento insieme a Falcao, va menzionato, anche perché in tutto questo si parla sempre di una Liga bipolare, che è vero, probabilmente finirà così, però intanto l'Atletico Madrid è in testa con il Barcellona e questa la Liga fa un gran bene. Io questa settimana sono anche andato a vedere giocare il Malaga, prossimo avversario del Milan, a Bruxelles contro l'Anderlecht, un'altra squadra che gioca benissimo, quindi ci sono anche, per la prima volta dopo anni, ci sono anche altri spiragli. Ricordiamo che l'Atletico Madrid l'anno scorso è arrivato a 44 punti dal Real Madrid, quest'anno adesso è in testa con l'Atletico, con il Barça. Così chiusa la parentesi su Falcao, che considero un altro grandissimo centravanti, se devo scegliere uno dei due, dico Messi, che quest'anno, così tanto per dare un'idea agli ascoltatori, nel 2012 ha fatto 65 gol in 51 partite. Sì, mancano ancora un paio di mesi per battere, per frantumare tutti i record, così come credo che ad esempio il record di Stefano di gol nel classico sia destinato a evaporare probabilmente già a primavera, poi vediamo, aspettiamo. Siamo a quota 17. Io dico la mia, annoiano anche un po' tutti questi record, anche se è evidente che poi noi avremo la fortuna di dire che siamo stati contemporanei di un giocatore straordinario come Messi, di un giocatore altrettanto straordinario come Cristiano Ronaldo, però è anche evidente che questi numeri fanno riferimento poi a epoche diverse in cui c'erano meno partite, forse era anche meno difficile fare gol a grappoli in questa maniera. No, non lo so, io non so tanto, e comunque guarda, io metto le cifre, che le cifre servono per aggrapparsi, no? Sono come delle rocce, restano lì, però poi intorno c'è un sacco di verde, non so come dire, queste sono partite spettacolari, sono squadre che giocano bene, adesso il Barcellona, se vogliamo, gioca un pochino meno bene dell'anno scorso, però il Barcellona sta superando il trauma del post Guardiola, è cambiato l'allenatore, è venuto un allenatore semi sconosciuto, chiaro, c'è la squadra, ci sono i giocatori, però poteva anche andare diversamente, questi fino a ieri campionato e Champions League avrebbero vinto tutte le partite, hanno 8 punti di vantaggio sulla Madrid, ma soprattutto è il gioco che è bello, spettacolare. Il primo gol del Madrid è un gol bellissimo, cioè sono 6 o 7 tocchi di prima. Voglio dire, sì, ormai ci siamo quasi assuefatti a questo livello, e poi andiamo a fare un po' le pulci. Ad esempio, tu ci dici il primo tempo è stato un po' noioso, hai avuto la fortuna di non vedere il derby di Milano, certo, ma non nel primo tempo, dal primo al 90esimo minuto. Non so, ieri parlavo con una radio qua spagnola, e io li prendevo un po' in giro perché qua sono capace anche di criticare la Spagna, cioè la Spagna che ha vinto europeo, mondiale europeo, giocando molto bene. Cioè, comunque tentando sempre di fare una scelta di qualitativa altissima, qui ogni tanto la criticano, perché comunque se uno è abituato bene, è abituato a veder giocare le e poi pretende, certo modo, è come andare alla Scala per ascoltare i migliori cantanti. Grazie a Filippo Maria Ricci. Grazie a voi, un saluto Andrea anche. Invece rimane ancora con noi un paio di minuti Andrea Sorrentino, perché tanto si sprecano le segnalazioni, c'è chi ci dice anche che fu bruttissimo il derby di semifinale in Champions League, il derby d'andata, quello finito 0-0 nel 2003. Andrea, è vero, certamente fu una partita brutta, però io credo che eravamo su altri livelli. Sì, c'era una qualità, parlavamo di qualità anche prima, c'era una qualità diversa degli interpreti, c'erano Shevchenko, Rivaldo nel Milan, c'erano altri giocatori importantissimi nell'Inter, insomma erano altre squadre. Però io insisto, dobbiamo passare anche attraverso queste brutture, queste delusioni, affinché il calcio italiano in qualche modo riparta, perché si era andati troppo fuori controllo, troppe spese, troppi giocatori costosissimi, spesso anche inutili, e adesso è anche giusto espiare un po' e ripartire così, anche da questi derby così mal giocati, così mal diretti anche da un arbitro che è stato tecnicamente disastroso, secondo me. È così, è un anno zero e bisogna farci l'abitudine. Certo, sottolineiamo che tutto ciò non ci piace, ma cerchiamo anche di pensare che è una fase necessaria per ripartire. Ecco, io la vedo così. E allora dobbiamo prenderci anche questo blob, che è un po' il riassunto invece sonoro della serata di San Siro. Allora, facciamo una cosa, visto che io non parlo mai degli arbitri, io credo che stasera l'arbitro abbia condizionato pienamente la partita. Parlate degli arbitri con le altre squadre, quando succede al Milan qualcosa contro, non si parla mai. È 5 minuti che sono qui e non c'è stata una domanda. Più torna a me, chissà dove sarai. Tutti i giocatori questo dicono anche. Moderato, molto sobrio. Devo parlare? No, penso che hanno fatto. Pazzo ha fatto una bellissima giocata. Io ho sentito il contatto con Rubinho, però penso che ci sono tanti di questi contatti in aria. Mi sembra un po' esagerato dal rigore, però non lo so. Sera solo col ricordo di te. Ho pensato di mettere lui come allenatore perché mi sembrava che avesse delle doti di intelligenza anche come persona, oltre che come allenatore, che gli permettevano di crescere. Ma per me la cosa che mi fa assomigliare di più all'altro personaggio è veramente la dedizione al lavoro. Ritorno col pensiero al passato. E avete riconosciuti, sono i protagonisti del dopo partita di ieri sera, partendo da Allegri per arrivare a Moratti. Andrea Sorrentino, collega di Repubblica, ti risparmio tutte le polemiche sull'arbitraggio di Valeri, del resto tu lo hai definito disastroso dal punto di vista tecnico, Gagliani poi lo sentiremo, lo ha definito tecnicamente inadeguato, credo abbia fatto tu la pagella su Repubblica che ha dato a Valeri per la prestazione di ieri sera 4,5 ed è già stata buona, in tanti gli hanno dato 4 secco. Oh, 4 anche noi. Quattro anche voi allora. Sì, tranquillamente, insomma è un 4 periodico perché è proprio l'emblema della prestazione dell'arbitro che ha sbagliato subito dall'inizio, non ammonendo Samuel dopo un minuto, da quel punto poi ha cambiato continuamente metro di giudizio sulle valutazioni dei falli. Lasciamo stare poi visti gli episodi contestati in cui non ha visto bene, però insomma ecco, è stato coinvolto anche lui dal grigiore generale, un grigiore in cui, da cui secondo me il Milan faticherà a riemergere, proprio perché non vedo una squadra in grado di avere altre risorse dal punto di vista tecnico. L'Inter invece secondo me, col buon lavoro che ha fatto Stramaccioni fino adesso, sta nascendo come squadra da battaglia, magari brutta a vedersi, ma non potrà mai essere bella l'Inter perché non ha elementi di qualità in mezzo al campo e non ha esterni d'attacco, però sta diventando una squadra da battaglia che si chiude e riparte. Sì, ha una sua logica, ha una sua logica in campo. E se i tre davanti interpretano al meglio la partita, non come ieri sera, è una squadra che può vincere molte partite e scalare pian piano la classifica. Grazie ad Andrea Sorrentino. A voi. Grazie ad Andrea Sorrentino, collega di Repubblica. Davide dalla provincia di Pavia, buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Prego. Volevo fare un appunto al signor Allegri, che da parte sua ha criticato l'arbitro. Certo che detto da una persona che dopo 4 minuti doveva essere allontanata dal campo perché non si è mai visto in Serie A un allenatore uscire dall'area tecnica, chiamare l'arbitro a sé, dirgli in faccia che non sa arbitrare e rimanere lo stesso in campo, la dice tutta sulla caratura tecnica dell'arbitro Valeri. Sì, ha sbagliato tutto, ha sbagliato a tollerare sin dall'inizio, ha sbagliato a non ammonire, ha sbagliato a non sanzionare in qualche modo Allegri, poi gli errori nel proseguo della partita sono stati gravi e condizionanti. Esatto, all'infinito da una parte dall'altra, ma Valeri rappresenta quello che è il settore arbitrale italiano, perché noi abbiamo visto anche in Juventus Siena un arbitro a 40 centimetri dal fallo di Chiellini non ammonirlo, cioè la cifra tecnica degli arbitri italiani oggi è quella, e purtroppo c'è anche il direttore degli arbitri che dice che addirittura arbitrano bene, per cui a questo punto dobbiamo accontentarci di quello che abbiamo. And the Oscar goes to... Paternanes, il profeta, subito in gol al quinto minuto, il gol di Hernanes, Pescara 0, Lazio 1. Io l'ho incarata questa partita, si dice questo, incarata, no, penso di no. No, io ho affrontato la partita come essendo una partita delle più difficili, perché sapevamo che l'anno scorso queste partite in trasferta venivamo un po' non concentrati e sbagliavamo sempre. L'Oscar della settimana è per il gol di Hernanes a Pescara su calcio di punizione. Intanto ci state scrivendo in tanti, anche su Twitter, chiocciola tutti convocati, senza campioni veri è difficile mettere in campo un derby degno della Serie A cui appartiene. Pasquale da Bari, buon pomeriggio. Buon pomeriggio, grazie per la convocazione. Prego. Allora, milanista... E devo dire che i 7 punti che abbiamo in classifica sono giusti, ce li meritiamo tutti, tutti e 7, va bene così, cioè va bene, tra virgolette. Per la partita di ieri sono veramente contento, avevo visto un bel Milan, dispiace, abbiamo perso perché abbiamo regalato la partita all'Inter, con quell'errore di Abbiati e con un secondo che ci è andato bene, però sono contento per il secondo. E terzo, per il Barese che gioca nell'Inter, se lo tenessero stretto, io mi tengo stretto Pazzini. Quindi lei è contento dello scambio che è stato fatto, Pazzini? Siamo tolti una mina vagante e mi avrebbe rovinato il Ceraio e Boia, e sono contento anche di Boia. Vi siete tolti un peso, va bene, grazie, grazie Pasquale. A me Boia, onestamente, ieri ho fatto fatica ad accorgermi che fosse in campo. Filippo, dalla provincia di Varese. Sì, buongiorno. Prego. Niente, io volevo soltanto dire due cose. La prima era sono anch'io un tifoso milanista, ma... credo che l'arbitro non abbia condizionato la partita, quindi mi spiace che Allegri o Galliani possano aver detto una cosa di questo tipo. Eviterei di continuamente dire gli arbitri condizionano le partite. L'arbitro ha sbagliato, come ha sbagliato Boateng, secondo me due gol, non dico facili, ma insomma possibili, come del resto ha sbagliato Pazzini, insomma, o come del resto ha sbagliato anche Abbiati o Di Sciglio sulla marcatura di Samuel. Ah, sono errori che possono... Sono errori che ci stanno. Ecco, la pensa un po'... Dica Filippo. Solo la seconda cosa rispetto al dottor Sorrentino. Ecco, io non ho visto una grande Inter, nel senso che Mi spiace per Stramaccioni, io guardi, sono contento se Allegri dovesse giocare, far giocare il Milan da provinciale, come ha fatto ieri l'Inter, perché poi ieri l'Inter non ha fatto altro che 2-3 tiri in porta e poi non si è vista. Quindi se questa è l'intenzione di Stramaccioni, non mi sembra un Inter un po' poverella, cioè noi come cugini siamo nulla, ma loro... mi sembra che sia un po' pochino. Sì, ma è pochino un po' tutto ed è un po' questo il tema oggi da tutti i convocati, cioè la pochezza complessiva di quello che abbiamo visto ieri in campo a San Siro. A proposito di Valeri, la pensa un po' diversamente invece da Filippo, Adriano Gagliani, che ha parlato un'oretta fa in Lega Calcio, sentiamolo. Ma no, le riflessioni che ho fatto è che a problemi nostri, purtroppo ieri sera si sono sommati problemi arbitrali, mi dispiace molto, insomma, comunque. Il voto all'arbitro l'hanno dato già i giornali, è inutile che lo do anch'io. Certo, poi il gol era regolare, forse c'era un rigore, però noi potevamo fare anche di più. Voglio dire, dai, l'arbitro l'avete visto tutti, quindi cosa vuol dire? Tutti i giornali gli hanno dato 4, evidentemente meritava 4, non capisco dal primo fallo di Samuel. Perché poi quello che mi è dispiaciuto è tutta la direzione della gara, strana, stranissima. Non lo so, l'arbitraggio di ieri sera è stato assolutamente tecnicamente inadeguato. Punto e basta. Queste sono le parole di Gagliani, tecnicamente inadeguato. Qualche messaggio è arrivato al 349-238-6666. Basta con Allegri, è il tecnico più scarso e triste del mondo. E ancora il Milan prendeva gol su palle inattive con Ancelotti, prendeva gol su palla inattiva con Leonardo, continua a prenderle e non so perché gli addetti ai lavori non cerchino di intervenire. E poi Guido, grande Inter, in 10 per un tempo fuori casa, se poi il messaggio che deve passare è che siccome ha vinto l'Inter è stato tutto brutto, va bene. No, Guido, è semplicemente stato tutto brutto e basta, cioè quello che abbiamo visto ieri sera è stato tutto brutto. C'è chi ha fatto una statistica, era da 3 anni ad esempio che all'Inter non capitava di vincere tirando verso la porta avversaria soltanto 6 volte, come è accaduto ieri. Marcello da Milano, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a voi. Senti, prego. Io ieri sera ero a San Siro. Sono un vecchio tifoso interista e devo dire che per me ha fatto schifo tutto, dall'arbitro ai giocatori, cioè non c'è stato un momento della partita bella. È molto più bello vedere 10, 12, 15, quelli che sono ragazzini che corrono in campo nelle primaverili, che non stare lì a vedere a San Siro uno spettacolo così deprimente. Deprimente, va bene, sì. grazie Marcello. Proviamo a risollevarci allora con la nostra top 3, che è il nostro appuntamento del lunedì. Cominciamo dalla terza posizione, Giampiero Ventura, allenatore del Torino. Io quello che contestavo è che è un tiro al volo da 3 metri, quindi neanche volendo la volontarietà, cioè è impossibile, è un tiro al volo a 3 metri in cui uno distinto si gira e per evitare di prenderlo nella faccia, e se per caso ti picchia nel braccio, cioè non posso pensare che ci sia volontarietà, se no è Flash Gordon, Glick con le braccia, cioè è impossibile. Flash Gordon, Glick e Flash Gordon. In realtà su Twitter qualcuno ci ha scritto che Ventura non ci piglia molto coi fumetti, non è molto ferratissimo. Ma questo è quello che ha detto ieri dopo la partita persa dal Torino in casa contro il Cagliari. Al secondo posto, torniamo sul derby, Stramaccioni, che dopo il fischio finale è stato maltrattato da Cassano mentre esultava. Sentiamo come ha descritto questa esultanza. Con Cassano tutto bene? Com'è il rapporto? Che sembrate sempre estremamente complici e felici a ogni uscita dal campo. Ieri non mi lasciava più, mi ha fatto prendere un'ernia a schiena. Questo è Stramaccioni con l'ernia, Stramaccioni che oggi è andato a scuola perché deve ancora completare il percorso per prendere poi tutti i patentini che servono per poter allenare una squadra di Serie A. In prima posizione, davvero una prima posizione d'eccellenza, quest'oggi Serse Cosmi, finito nel box a fianco ad Antonio Conte in Siena Juventus. No, tanto io voglio fare l'allenatore dai box, quindi mi piace la situazione, perché per essere allenatore bravo devi star lì, e quindi voglio star lì ogni tanto, insomma, voglio dire, perché il box adesso fa molto tendenza. Il box fa tendenza, meraviglioso. Pierluigi Pardo, buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Meraviglioso Cosmi, eh? Il box fa tendenza. Io volevo andare là perché adesso per essere bravi bisogna andare a seguire le partite nel box. Questo è un assist per stasera, vabbè, faccio proprio smarchetto volgarmente, dico 21:30 Italia 2 e poi a 00:50 in replica su Italia 1. Ci sarà, fra le varie sorprese di 11, ci sarà Sergio Cosmi, nel quale parleremo, insomma, della partita, col quale parleremo della partita di ieri, di tutto quello che è successo e anche di questa nuova tendenza, la partita che si vede meglio dall'alto, evidentemente. Hai visto, beh, del resto Siena ha anche giocato bene, al di là che poi ha perso, probabilmente ha ragione Serse Cosmi, ha ragione Conte, suo malgrado. Qualche tempo fa si era aperta la discussione in realtà se agli allenatori di calcio convenisse davvero stare in panchina o andarsi a seguire la partita in posizione in cui avessero una visuale migliore. Chissà che questo inizio di stagione non riporti d'attualità tutto questo. Volevo chiederti se ieri hai visto il derby di San Siro, prima di parlare di Cassano e della nazionale, purtroppo. Beh, non è che il derby, sinceramente, sarà un derby chiaramente deciso dagli episodi, quindi le reazioni dei milanisti secondo me sono giuste, nel senso che sicuramente adesso non entrare nel merito delle questioni arbitrali, la partita poteva girare anche in maniera diversa, non è stato un verdetto netto a favore di una squadra nei confronti dell'altra, però al di là di questo io credo che il Milan sia concesso due errori clamorosi all'inizio della partita e questo è un fatto, quindi si è entrato malissimo in partita. L'Inter è andato in vantaggio, ha fatto una gara a quel punto puramente difensiva che poi in 10 contro 11 è diventata iperdifensiva, però il Milan ha fatto veramente troppo poco, insomma mi sembra che c'è un problema di fantasia complessiva, lì è il solito discorso, Ibra è un giocatore troppo importante che in qualche modo rappresenta una scorciatoia, finché tu a Ibra puoi anche decidere di giocare con un centrocampo che non è particolarmente creativo e di appoggiarti su lui. Non pensano Cerino quello che faceva l'anno scorso sfruttando le sponde di Ibra, qualcosa di eccezionale. Quest'anno il Milan deve trovare un modo diverso per giocare, ieri si è visto un discreto Montolivo, però il fatto che un discreto Montolivo sia stato il migliore del Milan la dice lunga sul livello di fantasia che c'è in questo momento in mezzo al campo. Sì, anche vedere Yepes nei panni del trascinatore o del centravanti aggiunto, dell'anima di questo Milan che ha 7 punti dopo 7 partite e se non ci fossero le penalizzazioni del calcio scommesse avrebbe soltanto 5 squadre dietro, perché il Siena ad esempio, che in questo momento ha 2 punti in classifica, in realtà ne ha fatti 8, la stessa Atalanta che è dietro sarebbe a pari punti. È ovvio, Pierluigi, che questa non è la fotografia della stagione, il Milan finirà molto più avanti, finirà, magari non riuscirà a qualificarsi per la Champions League o per l'Europa League, però farà un campionato diverso rispetto a queste squadre, però io credo che quando oggi Galliani, oltre a dare del tecnicamente inadeguato a Valeri, dice per la prima volta forse la rosa di quest'anno non è sul livello di quella degli anni passati, fa il primo atto di presa di coscienza in tutto l'ambiente che le cose sono finite per come sono state fino a qualche mese fa. Ma guarda, ci sta, io credo che il Milan, il tifoso del Milan con questi 25 ha vinto in questi 25 anni quanto, non lo so, sommati intere generazioni di tifosi di altre squadre, per cui se c'è una squadra al mondo che può permettersi un po' di pazienza da parte dei tifosi è il Milan, per tutto quello che ha fatto in questi anni. Ci sta che arrivi un momento stesso, un momento in cui bisogna ripianare il bilancio. L'unica cosa che forse si potevano fare degli acquisti un po' diversi e provare a puntare su un progetto più a lungo termine, quindi piuttosto che prendere magari dei giocatori a parametro zero un po' in avanti con l'età, si poteva provare a fare un progetto vero di rinnovamento con grande chiarezza nei confronti dei tifosi, dicendo noi abbiamo adesso 2-3 anni di problemi da sistemare dal punto di vista del budget, andiamoci a prendere dei giovani per tornare a essere competitivi e aprire un nuovo ciclo fra qualche anno. Ecco, questo secondo me è l'unica cosa che si può contestare, ma poi se discutiamo la gestione di Berlusconi e Galliani dal punto di vista dei trionfi. Sempre insieme a Pierluigi Pardo. Pierluigi, non è piaciuto tantissimo ai tifosi del Milan la tua annotazione sul fatto che ci possa stare un momento di difficoltà. C'è chi ricorda 8 sconfitte negli ultimi 10 derby e dice bisogna essere seri, c'è chi dice contate bene e vedrete che le vittorie sono arrivate all'inizio e non sono spalmate negli ultimi anni e quindi in realtà è un po' che c'è il declino della gestione Berlusconi. Beh, io ricordo che in ogni caso dagli anni 2000 in poi il Milan ha vinto, se non sbaglio, 2 Champions League, ci sono società che 2 Champions League non le hanno vinte in tutta la loro storia. Esattamente questo, non è un fatto di proporzioni. Ci sono tifosi, la stragrande maggioranza dei tifosi della maggior parte delle squadre al mondo non arriverà neanche a giocare una semifinale di Champions League. Era questo unicamente un assolutamente elemento, era una provocazione per cercare di capire. Il momento del Milan sia difficile, questo è evidente, che ci sia la rabbia per il derby perso, questo è evidente, insomma il tifoso va assolutamente capito, ci mancherebbe. Quanto è arrabbiato invece Antonio Cassano di essere stato messo fuori dal nuovo progetto di Prandelli? Ma non credo che sia particolarmente arrabbiato, credo che tutti convocati, mi veniva a pensare quasi tutti convocati. Quasi tutti convocati. Tra l'altro Prandelli ha appena parlato, Allora adesso te lo faccio sentire, sentiamo, dai, così sentiamo, lo sentono tutti. Vai. Prandelli. No, non è finito, però in questo momento ho preferito continuare su quella strada del rinnovamento con dei ragazzi giovani, però per lui non è finito assolutamente. È un po' un discorso che abbiamo fatto per Di Natale, che ha comunque continuato a lavorare bene, a farsi trovare pronto, e poi nel momento importante c'è stato. Questo Prandelli su il fatto che Cassano non fa parte di questo gruppo della nazionale, Pierluigi, a me urta che non abbia il coraggio di dire che Cassano è fuori e basta, e alla fine decide Prandelli, è anche giusto se lui pensa così che decida, però che una volta non lo chiami perché è al 60% della forma e poi perché invece è troppo anziano e richiama Gilardino, che più o meno ha la stessa età di Cassano, io lo trovo sinceramente insopportabile. Beh, insomma, io mi attengo a quello che ho appena sentito, e se Prandelli ribadisce due volte che non sono chiuse le porte, penso che non sono chiuse le porte, ha pienamente diritto a fare le sue valutazioni. Il Cassano di ieri sera può anche non essere convocato dalla nazionale, quello di una settimana fa contro la Fiorentina e in generale quello dell'inizio della stagione invece secondo me è nettamente superiore a quello dell'europeo, perché sicuramente ha ricominciato a prendere una condizione fisica migliore. No, io spero solo che ci sia chiarezza, perché insomma, conoscendo i soggetti in questione, credo che con una telefonata si sistemi tutto. Penso che il discorso di Prandelli, così come l'ho sentito, sia un discorso vero, e abbia pienamente diritto in questo momento di cercare anche altre strade. Spero che si sentano, si telefonino, se pensano che sia opportuno, perché credo che la chiarezza sia la più logica. Certo, siamo di fronte non a delle amichevoli, non è che siamo per forza qualificati al Mondiale in Brasile, quindi siamo di fronte a delle partite che, a differenza dell'amichevole del 15 agosto, hanno un valore per qualificarci. Già le prime due uscite non sono state brillantissime, Prandelli deve pensare non tanto a sperimentare, ma quanto a fare risultati, perché questo doppio impegno è uno snodo importante nel girone. Grazie per Luigi. Ciao ragazzi. Grazie ciao. Per Luigi Pardo, questa sera in onda con 11 su Italia 2. Ivan ci ha scritto su Twitter: Di Natale e Cassano sono fuori dal progetto, forse faranno soltanto qualche partita di qualificazione. Giulio da Modena, buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Prego. Io sono tifoso milanista, volevo fare una considerazione puramente tecnica. Io ieri sera ho visto all'inizio partita in campo sulle fasce per capire già l'atteggiamento per me di un allenatore totalmente inadeguato, quello sì che è Allegri, mettere Bonera terzino destro a scopo maggiormente difensivo, non si sa di cosa, perché l'Inter non mi sembra abbia più Roberto Carlos da un po', da quella parte. Dall'altra parte Discilio, che è un ragazzo interessante, costretto a vedere che crossa di esterno destro dal fondo della fascia sinistra. Sembra che nemmeno l'abbiano provata questa soluzione. Io queste cose, per chi guarda il calcio da un po', credo siano lampanti della pochezza di come una squadra è messa in campo, premesso che la rosa del Milan è quella che è. Aggiungo che difatti il primo cambio poi di Allegri è stato mettere un esterno di spinta come Abate, quindi probabilmente di questo errore di partenza si è accorto anche il tecnico del Milan. Giovanni da Roma, buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Senti, io ho fatto un'annotazione sul comportamento degli arbitri verso gli allenatori. Prego. Secondo me sarebbe più logico trattare gli allenatori come i giocatori, cioè che ci fosse una prima fase di ammonizione con cartellino giallo verso l'allenatore e poi una successiva fase di espulsione, in modo che anche l'allenatore sa che è sotto osservazione, quindi dopo l'ammonizione può prendere, diciamo, assumere dei comportamenti un po' più meno irruenti, ecco. Perché mi pare veramente, diciamo, antisportivo cacciare l'allenatore, così, perché è una figura, diciamo, fondamentale per il funzionamento di una squadra. Grazie Giovanni. Beh, io in realtà mi sarebbe piaciuto vederne cacciare anche di più di allenatori, perché vediamo anche delle, ad esempio ieri, stramaccioni, per non parlare di Allegri, che dopo 4 minuti, ma lo abbiamo detto, era quantomeno da riprendere da parte di Valeri. Beh, lo stesso è successo per stramaccioni nel finale di partita, e anzi raccontano le cronache che l'indicazione del quarto uomo verso Valeri fosse proprio quella, cioè che stramaccioni andava espulso, stramaccioni ha finito tranquillamente la sua partita. I numeri della Champions League. I numeri della Champions. La prima tripletta in Coppa dei Campioni è stata messa a segno da Petar Pelotas del Vorus Lobago contro l'Anderlecht. Era il 7 settembre del 1955 ed era il secondo incontro in assoluto giocato in questa competizione. I numeri della Champions in collaborazione con Unicredit. E a proposito dell'arbitraggio di Valeri e di tutti i direttori di gara di ieri, sentiamo qual è stato il bilancio della giornata che ha fatto questa mattina Nicchi, che è il capo degli arbitri italiani. Sentiamolo. Quella di ieri è stata ancora una volta una giornata, secondo me, buona. Ce ne sono state altre migliori, ce ne saranno altre dove capiterà sicuramente, il calcio è bello per questo, cose da cui prendere spunto e discutere. Questo è il bilancio di Nicchi. Ieri, a parte Valeri, ha preso voti tra il 4 e il 4,5 Mazzoleni, insieme a Juventus, insufficiente Banti, in Roma Atalanta, c'è Tagliavento che attraversa un periodo pessimo forma, non lo so. Io ho un'idea diversa rispetto al presidente dell'AIA. Abbiamo ancora un minuto, velocemente, Pierfrancesco da Roma, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a voi, a lei, grazie. Prego. No, senta, io volevo dire questo, io sono sportivo e tifoso tennista da tenera età. L'arbitro obiettivamente avrà anche arbitrato male, però non ha nessuna colpa. Se c'è un regolamento, il regolamento è quello, quindi bisogna rispettare il regolamento. A mio avviso, con tutto il rispetto che ho per Allegri, che è una bravissima persona, per l'amor di Dio, però dovrebbe un attimino rivedere la sua tattica di gioco, perché con dei giocatori che sono obiettivamente non sono dei fenomeni, a parte qualcuno. Poteva fare anche meglio, probabilmente, ma ne parlavamo anche prima, ad esempio nella gestione iniziale. Ha ragione Pierfrancesco, ma comunque torneremo a parlarne ancora domani, così come di nazionale. Io ringrazio Franco Piantanida in redazione, Roberto Scaltritti in regia. L'appuntamento con tutti i convocati è per domani, sempre a partire dalle 14, sarete tutti convocati.